57. Zuppa di fagiuoli. Si dice a ragione che i fagiuoli sono la carne del povero. E infatti, quando l'operaio, frugandosi in tasca, vede con occhio malinconico che non arriva a comprare un pezzo di carne bastante per fare una buona minestra alla famigliuola, trova nei fagiuoli un alimento sano, nutriente e di poca spesa. C'è di più. I fagiuoli restano molto in corpo, quetano per un pezzo gli stimoli della fame, ma anche qui c'è un ma, come ce ne sono tanti nelle cose del mondo, e già mi avete capito. Per ripararvi in parte, scegliete fagiuoli di buccia fine o passateli. Quelli dall'occhio hanno meno degli altri questo peccato. Per rendere poi la zuppa di fagiuoli più grata al gusto e più saporita, dato che debba essere una quantità sufficiente a 4 o 5 persone, fatele un soffritto in questa proporzione. Prendete un quarto di cipolla, uno spicchio d'aglio, un pizzico di prezzemolo e un bel pezzo di sedano bianco. Tritate finissimi questi odori con la lunetta e metteteli al fuoco con olio a buona misura. Siate generosi a pepe. Quando il soffritto avrà preso colore, unitevi 2 ramaiuoli della broda dei fagiuoli, aggiungete un poco di sugo di pomodoro o di conserva, fateli alzare il bollore e versatelo nella pentola dei fagiuoli. Per chi aggradisce nella zuppa un poco d'erbaggio, può mettere in questa il cavolo nero, prima lessato e fatto bollire alquanto nel liquido del soffritto suddetto. Ora non resta che bagnare il pane, già preparato avanti con fette arrostite, grosse un dito e poi tagliate a dadi.